bella Miriam Dab. Io te l'avevo detto, arriva. Attenzione, quello che ascolterete per i prossimi 60 minuti potrebbe urtare la vostra sensibilità. Se siete soggetti privi di umorismo, sarcasmo e autoironia, vi consigliamo di cambiare frequenza o di ascoltarci in presenza di qualcuno estremamente paziente da spiegarvi che vi stiamo prendendo per il culo. Emigrada, emigraniada. We come and rapper every time. Io te l'avevo detto. Buonasera a tutti e a tutte. Ciao. Compagne e compagni, bentornate e bentornati. Su 87.9 di Radio Onda Rossa con appunto Io te l'avevo detto. Ormai siamo bravissimi. Ormai siamo bravissimi, è la prima volta che ci riusciamo da... Ma quando mai? Comunque, allora, bentornati. Direttamente da Via dei Volsci, questa è, io te l'avevo detto, Radio Onda Rossa. Yes. Le rosse bandiere che sventolano fuori, bellissime finestre. In questa giornata un po' nuvola, un po' di sole, ogni tanto si apre come il cielo noi, di come Roma, noi. Come noi, un po' ombrosi, un po' col sole. 12 maggio 2021, 18:10, andiamo ad incominciare l'ennesima puntata di Io te l'avevo detto. Questa trasmissione, diciamo un po' ironica, satirica, di Radio Onda Rossa. Ironica o dici, scusa, insomma... Siamo un po' il varietà. Va bene, cogliamo l'occasione per salutare Fabio G, Andrea B e tutti quanti quelli e tutte quante quelle all'ascolto. Ciao Fabio G e Andrea B. Salutiamo anche chi non gode della libertà personale, speriamo insomma che presto ci vediamo fuori e speriamo anche di riuscirvi a farvi fare e farci insieme due risate. Andiamo un attimino a cominciare la puntata di oggi, quindi due ore di serenità. Che cosa ci siamo chiesti questa settimana? Ci siamo chiesti quando è che una notizia riesce a bucare il mainstream, ok? Cioè nel senso, quando è che arriva a tutti e a tutte e che invade, poi va ad invadere la ce l'ho io, la vita di ce l'ho, ce l'ho, lo so. Quando c'ha la punta buca. Okay. Ce lo siamo chiesto e naturalmente 06 49 17 50 per mettervi in contatto con noi via alle telefonate se volete chiacchierare con noi su questo tema e niente. Ci andiamo a sentire una canzungella spensierata e poi insomma così subito. Beh sì, dai, vabbè, mi sembra adeguato. A tra poco. Ciao. Sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, e andiamo ad iniziare la puntata di oggi. Appunto, abbiamo detto, parleremo, proveremo ad analizzare insieme a voi quando e perché una notizia, tra virgolette, buca, ok, esce più o meno fuori rispetto ad un'altra. E cominceremo ad analizzare questo particolare aspetto dell'argomento, partendo dal fatto, insomma, che la settimana scorsa, come molti e molte sapranno, ci sono state 130 morti nel nostro mare, e ci siamo chiesti come mai una tragedia del genere non crea scalpore, no? Nel senso, 130 morti, se lo paragoniamo a quello che è successo lo scorso anno e quello che ha messo in moto tutto quanto il movimento BLM, è abbastanza paradossale, no? Beh, sì, effettivamente sarà un po' l'abitudine a questi fattacci, sarà un po' che i media hanno perso interesse nel sottolineare, nel ricalcare, diciamo, notizie che comunque hanno una certa ridondanza, perché purtroppo siamo arrivati a questo punto, cioè le stragi in mare sono diventate una triste consuetudine, e quindi questo probabilmente potrebbe essere uno dei fattori. Passa in secondo piano perché non è più come dire rilevanza, chiedo. Esatto, quelle che facciamo noi sono tutte domande, insomma, sono tutti interrogativi che ci poniamo insieme a voi. Io non lo so, proverei un po' a buttarla in mezzo come considerazione, quella che quando non si vede direttamente con i propri occhi, insomma, effettivamente quello che sta succedendo, si capisce meno, e quindi si è meno empatici con quello che ti passa sotto al naso, e quindi automaticamente diciamo crea meno scalpore. E quindi tu mi stai suggerendo un paragone, cioè tu mi stai suggerendo un paragone tra le notizie che finiscono immediatamente sotto l'occhio dei più e invece quelle che sfuggono all'occhio delle telecamere. No, ti sto più che altro proponendo una riflessione per la quale magari, come spesso abbiamo detto e continueremo a dire dai microfoni di questa radio, non c'è una reale voglia di fermare appunto questi flussi, anche perché coloro che dovrebbero fermarli poi alla fine sono gli stessi che ci vanno a guadagnare sopra, che non fanno i contratti, tranne che le bufale tipo quelle che abbiamo visto lo scorso anno, e né tantomeno si preoccupano per la salute, per i vaccini, un po' come quello che succede all'interno delle carceri. Quindi la riflessione, quella che io provo a buttare in mezzo, è che appunto occhio non vede, cuore non dore, non vediamo quella roba lì perché è stato bloccato l'ONG, perché quando si vedeva con i video che andavano a fare le persone che stavano lì, che provavano a salvarli, e vedevi che effettivamente quelle persone stavano nel mare nero profondo con solamente un pezzetto di plastica al quale attaccarsi, non era proprio quello che ti propinavano i politici di turno, che ti dicevano che stavano venendo col gommone a rubarci il lavoro, le donne e chissà che cos'altro, no? Assolutamente, assolutamente. Quindi anche un po' questa diciamo questa dicotomia che si crea nella narrazione rispetto alla realtà è anche un po' uno dei fattori che crea la notizia, diciamo, un po' questo fattore un po' che crea la, come dire, crea la contraddizione, ecco, scusatemi, non mi veniva il termine, la contraddizione tra quello che ci raccontano e quello che realmente avviene, che appunto che è ben diverso. Esattamente. Molto spesso, sì, quasi sempre, purtroppo. E soprattutto quando parliamo di notizie dobbiamo anche un po' fare l'analisi, che è quella che cercheremo di fare oggi dal nostro punto di vista, ovviamente, e cioè il cambiamento dell'analisi della notizia e l'analisi di conseguenza anche del cambiamento proprio, no? Cioè la tecnologia e tutto quello che la velocità della notizia, insomma. Sì, esatto. E poi soprattutto come si perdono i mezzi, come si perdono le notizie all'interno di tutta, esatto, questa roba qua, perché insomma, come vedremo, molto spesso, ormai quasi sempre, quasi ovunque, la tecnologia fa da padrona, almeno su quanto riguarda poi proprio la scrittura e la realizzazione dei titoli delle notizie. Però insomma, più tardi lo vedremo. Anche perché la notizia cambia proprio, no? Il concetto di notizia con l'avvento di internet cambia proprio. E infatti, comunque, per rimanere appunto sul focus di oggi, o meglio di questo primo spezzone, è perché le notizie bucano? Come fa la notizia a diventare virale? Come fa un fatto a diventare una notizia? Scusatemi, un fatto a diventare una notizia. Come, quindi, insomma, vi ricordiamo 06491750, diteci la vostra, appunto, perché noi oggi non siamo qui a dirvi come una notizia diventa diventa tale o come una notizia buca. Siamo qui a riflettere con voi su questo fenomeno, insomma, che ci ha colpito. Ne stiamo facendo una sorta di analisi aperta. Esatto, esatto. Quindi, insomma, dicevamo, la notizia che buca. Parlavi appunto di questa tragedia che c'è stata in mare, sì, in questi ultimi giorni, insomma, che nei giorni in cui muoiono 130 persone in mare, insomma, l'attenzione di tutti quanti i media si concentra appunto sul recupero sul tentato recupero dei brigatisti da Parigi, no? Cioè, nel senso, le politiche a livello europeo cambiano, quello che qualche anno fa poteva sembrare assurdo, quest'anno invece sembra quasi realizzabile, così, con uno schiocco di dito. Esattamente, perché appunto come ce l'hanno raccontata questa roba dei brigatisti, questa notizia che c'è stata, insomma, ce l'hanno raccontata come una cosa assolutamente fondamentale, di primaria importanza, che ha giustificato appunto questa prevaricazione rispetto a un fatto drammatico. Ma è il gioco delle notizie. Comunque, esatto, ne parleremo del secondo spezzone di questa cosa qua. Nel frattempo, esatto, ci andiamo a sentire il fantastico Fake News, che oggi la fa da padrona, insomma, perché nel mondo dell'informazione, come vedremo anche più tardi, è la sua giornata, come la fanno da padrona. Sì. La maggior parte delle notizie che circolano, dati alla mano, nero su bianco, oggi se la comanda la maggior parte, so fake news, e quindi oggi sarà la sua giornata, quindi Ivanov. Oggi Ivanov Kalabrov, linea a Fake News TG. Yes, sì. Buonasera e benvenuti a Fake News 24, le notizie di oggi. Ennesima strage di migranti in mare, l'Italia fa estradare 7 ex brigatisti, Berlusconi dimesso dal San Raffaele, Fedez e il concerto del primo maggio. Ad una settimana dall'ennesima strage di migranti in mare, con la morte di 130 esseri umani lasciati al loro destino, malgrado le ripetute richieste di aiuto inviate, le polemiche che giustamente ci sarebbero dovute essere si sono spente ancora prima di iniziare. Il problema non è che il governo italiano ha rimbalzato le responsabilità al governo maltese, che le ha rimbalzate alla Guardia Costiera Libica, che le ha rimbalzate a non si sa chi, hanno dichiarato dall'Agenzia ONU per i rifugiati. Questo ce l'aspettavamo. Il problema è che ormai queste cose rimbalzano pure alla gente, infatti non se n'è accorto quasi nessuno. E nel pieno di una crisi sociale che potrebbe mettere in discussione i capisaldi del capitalismo, come la privatizzazione della sanità e la mancanza dei diritti per i lavoratori, il governo italiano mette a segno un importante colpo e riesce a fare estradare 7 ex brigatisti dalla Francia. Con l'estradizione degli ex brigatisti vogliamo dare un messaggio chiaro al paese, ha detto Draghi. Quella visione del mondo è stata sconfitta, quindi state buoni e non agitatevi troppo quando cominceremo a farvi pagare il conto anche di questa crisi, ha concluso il presidente del Consiglio. Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele. L'ex premier era stato ricoverato in vista dell'udienza e dei vari processi che lo vedono protagonista, tra cui Rubiter. L'ex presidente del Milan è stato dimesso quando i processi sono stati rinviati e adesso è nella sua villa di Arcole per riprendersi dalla lunga degenza. Per fortuna c'è stato il Covid, così possiamo ricoverare l'ex presidente di Forza Italia ogni volta che deve essere processato, con la scusa di ricadute e accertamenti, ha dichiarato il dottore personale di Berlusconi. Chiudiamo con la notizia più importante. Dopo aver attaccato la Lega dal palco il 1° maggio, Fedez promette una donazione a Radio Onda Rossa. Il tentativo della RAI di censurarmi è la dimostrazione che l'informazione deve essere libera. Ecco perché bisogna sostenere le radio come Radio Onda Rossa, che trasmette senza padroni e senza pubblicità, avrebbe dichiarato il rapper milanese. Purtroppo la pandemia ha ridotto le occasioni in cui poter fare iniziative a sostegno della radio, ma grazie a internet è possibile partecipare alla campagna 30. Sul banner delle campagne 30 per 1000 per poter partecipare e diventare attivamente resistenti contro il nero che avanza. Per i Fake News 24 è tutto. Ricordatevi di andare sul sito e partecipare alla campagna 30 per 1000. Buona serata e linea allo studio. Oh. Applausoni venivano a Karabrov. Sempre in diretta su 87.9 di Radio Onda Rossa. Meno male sti soldi. Io te l'avevo detto. Squilla il telefono. Oh, chiamino. Squilla il telefono, chissà chi è. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera, sono il portavoce del presidente, dottor Mario. Applausi. Questa è una fantastica notizia. No, volevo dire che il dottor Mario ascolta sempre Radio Onda Rossa, perché è appassionato specialmente di un programma, lui sente sempre Rotation. Il sabato notte lì a Palazzo Chigi alza la musica a palla, si mette lì a ballare. Però si voleva lamentare il nostro dottor Mario, il nostro presidente, perché dice: voi in questa radio parlate sempre di migranti, di carcere, di gente senza lavoro, ma ci sono notizie più importanti, e appunto io sono qui per darvi questa notizia importantissima. Che domani sicuramente sarà tutti i giornali. Vai, scoop, io te l'avevo detto. Esattamente, perché come sapete Ersor Mario è grande tifoso della Magica, lui è un romano di quelli veraci. Ok, fin qui c'eravamo. Ebbene, dopo la partita con gli inglesi il presidente ha detto: tacci vostri. Certo. Proprio così. Proprio così. Cioè, il politically correct dove lo mettiamo? No, il presidente è un romano di quelli veri, sanguigni, poi appunto è grande tifoso della Magica, quindi. Quindi insomma lui ci ha preso l'abitudine a creare sti scandali internazionali. Poi prima col turco che è un dittatore, mo questo è. Mo con gli inglesi chissà che succede. Smettete di parlare dei migranti, dei carceri, dei lavoratori. La notizia di domani e date spazio alle notizie, queste serie, queste cose importanti. Queste rivelazioni scottanti, queste serie TV, certo. È vero. Certo. E allora vi saluto e mi raccomando che il presidente ascolta Radio Onda Rossa. Grazie a te, grazie per averci chiamato. Grazie a lei e Ersor Mario. Aspettiamo la sottoscrizione al 30 per 1000, come ricordava, anche se Fedez ci ha fatto pubblicità, ancora non raggiungiamo, non è vero, ancora non l'abbiamo raggiunto, quindi ci abbiamo bisogno. Cioè, ci ha detto che ce li dà, ma ancora ci arrivano in realtà. Vediamo, perché Ersor Mario c'ha un po' le tasche, un po' così, vabbè, lasciamo perdere. Va bene, grazie mille e ci sentiamo presto. Alla prossima. A presto. Ciao. Io inizio a temere per la stabilità di questa sfortunata nazione. Vedi, poi dici Draghi se lancia e il Marione ci ascolta sarebbe da ricordargli più di qualche cosa al buon vecchio Mario. Come forse era meglio che non lo sapevamo, come che dice, ci ascoltava. Forse era meglio non saperlo, meglio non saperlo. Comunque dopo questa scottante rivelazione da parte proprio del il palazzo ci ha parlato. Ora noi continuiamo con la nostra puntata. Certo, nostra certo. Bellissima puntata di oggi. Fantastica, che storia. Prevede appunto, come dicevamo poc'anzi, l'analisi di quelle che sono un po' diciamo le motivazioni per cui le notizie diventano virali o comunque le notizie passano alcune notizie rispetto ad altre. Alla me è venuto eccetera eccetera. Mi viene un esempio così. Vai. Lo ricordate Simone de Torre Maura? Sì. Non sì. Mi sta bene che no. Che no. Certo. Non mi sta bene che no. Quella lì sotto un certo punto di vista a un certo punto appunto era diventata una false flag. Può essere. Che vuol dire? Vuol dire però, cioè nel bello, senso. Bellissimo. No, la false flag è appunto questa l'utilizzo di una di un concetto, di una frase, di uno strumento che però nasconde altre diciamo diventa viatico di altre questioni. Quindi ad esempio questa non so d'accordo che no, com'era, non mi sta bene che non no. Mi sta bene che no, e ha rischiato di diventare pure insomma tutt'altro purtroppo, insomma. Vabbè, certo, questo qui poi infatti come abbiamo visto diverse volte all'interno di questa settimana in cui preparavamo la trasmissione, insomma, molto spesso la notizia quello che ti arriva dalla notizia dipende da un sacco di cose, cioè nel senso, esatto. già la notizia di per sé come sappiamo è abbastanza manipolata, perché per arrivarti direttamente insomma deve avere un titolo che deve colpirti. Già questo qui insomma la rende un po' rarefatta come informazione. Poi se ci aggiungiamo, e quindi direi chi te la dà in primo punto, certo, chi ti sta dando questa informazione. No, vabbè, però comunque la false flag non è proprio questo, cioè quello che dicevo io, la false flag è una cosa che riguarda un po' più la no, questione diciamo dei militari. Noi facciamo un rapporto brutta. Generale, no, diciamo. No, vabbè okay. Comunque quello che volevo dire è che già quello che ti propinano non è il top. In più se ci metti la tua condizione, che non è che tutti quanti insomma abbiamo la stessa lo stesso approccio, la stessa capacità di interpretazione di alcune cose, no? E quindi chi riceve, chi ascolta, certo, assolutamente, esatto. Quindi molto spesso insomma si va a perdere tutto quanto il valore vero di quello che uno dovrebbe andare a cercare, no? Si è sempre meno curiosi, sempre più pigri, e questa cosa qua insomma è uno dei problemi più grandi che condizionano poi stranamente questa cosa sposi, è sempre più pigri in un momento in cui, come dicevamo prima, oramai l'evoluzione, no, tecnologica ci ha portato ad avere informazioni ovunque, sempre, in qualsiasi momento, e quindi no, cioè c'è la pigrizia proprio. Ma paradossalmente, in realtà, esatto, paradossalmente, quando potresti in qualsiasi momento anche con un semplice gesto di un dito avere tutte le informazioni che vuoi, e proprio su questo anche, no, cercheremo di analizzare tutte le informazioni che vuoi, che ne circolano oramai, è aumentato a dismisura il flusso. Eh certo, ma perché fondamentalmente chiunque può creare notizie e fake, esatto, news, perché in realtà come abbiamo visto e come continuiamo a vedere, insomma, è sempre più facile incontrare testate web dal nome improbabile, insomma, di tutti i tipi e di tutte le provenienze, che propongono notizie sempre più strampalate, sempre meno centrate, quindi oltre che fake news, quindi, perché questo poi è un altro problema dell'informazione, cioè la distorsione di quello che è l'informazione a seconda del comodo, poi ovviamente, esatto, per comodo, spesso per fini commerciali, spesso per, esatto, fini commerciali. Infatti quando leggiamo un articolo insomma su internet, cerchiamo spesso di andare a controllare anche quali sono i tag di questo articolo, spesso stanno in fondo all'articolo, perché molto spesso troverete in questi tag gli sponsor, diciamo, quelli che promuovono la scrittura di questi articoli, che diventano appunto, come vediamo, l'informazione a servizio del denaro, del capitale, del profitto. Guarda un po' che fatto strano. Chi strano, l'avrebbe detto? Strano. Chi l'avrebbe detto? Più tardi infatti cercheremo anche di vedere un pochino How bizarre. Più tardi infatti cercheremo anche di vedere un po' la relazione tra informazione e soldi, economia che gira denaro, intorno, denaro. All'informazione, perché insomma ci siamo andati a fare una ricerchina, una delle, delle cose che si può, siamo sbirciato, che si può andare a battere a Draghi, ma anche quest'altro, insomma, che non voglio dire che non fanno sì che queste notizie vengano fuori, però insomma a grandi linee da lontano si potrebbe immaginare come discorso da fare. Sei un complottista, sei un po' complottista. Sì, un pochino complottista. Un po' non ce lo dicono, attenzione che possiamo sfociare nel non ce lo dicono. Non ce lo dicono. Attenzione, attenzione, perché poi... è facile, no? Diventare quelli, però l'informazione è troppo pilotata e quindi diventiamo quello, vittime. È quello che ne sta un po' uscendo, no? Da questa analisi, da come viene proprio strutturata e strumentalizzata. Ah, ma quindi questa è una puntata complottista. No, che complottista. Ah, dobbiamo chiamare Quenons. Quenons time. Quenons time. Esatto, vi ricordate quando abbiamo parlato di Quenons? Ma che te frega? Sorvoliamo, perché forse è stato uno dei momenti più bassi che abbiamo raggiunto in 40, quasi 4 anni di radio. Mamma mia, come sei negativo, dai. Comunque, 18:33, sempre in ascolto di Radio Onderosa 87.9. Ricordiamo a tutti e a tutte che la radio non campa d'aria, quindi... quindi insomma è ora di continuare a dire che ci sta sto 30 per mille. Il 30 per mille è giustamente il modo che ha la radio per sopravvivere. Siccome appunto questa radio ha bisogno di tutte e tutti voi per sopravvivere, cercate di fare la vostra parte. Detto ciò, andiamo avanti. Anzi, io sarei per metto un pezzo a questo punto. Dai. No, in realtà no. Abbiamo il primo fantastico contributo del resto degli scalmanati della redazione di Io te l'avevo detto, che incredibile, è arrivato in tempo record, che ci è arrivato finalmente, io sono riuscito a scaricarlo. Ci andiamo a sentire quindi un estratto, sì, un contributo estratto da una riunione di una redazione. Quindi buon ascolto a tutti e a tutte e a tra poco. Dai. Sembra un fake news, raga. Attenzione, uno special. Buongiorno, giornalista. Hai finito l'articolo di cui mi hai parlato? Perché tra poco dobbiamo chiudere e mandare in stampa, eh? Dobbiamo ancora decidere la notizia per la prima pagina. Buongiorno, sì, direttore. Sì, ho finito. Stiamo aspettando solo il social manager. Buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno, ciao, ciao. Ci siamo tutti. Ok, allora, abbiamo tre notizie. Uomo litiga con cane del vicino e lo morde. Frontali a catena durante raduno di auto storiche su strada a senso unico con intervento di ambulanze d'epoca. E poi ennesima scoperta di traffico illecito di rifiuti tossici sversati in mare. Queste sono. La notizia dei rifiuti tossici, meglio di no, va. È troppo divisiva, non è il momento. Ma perché? Ma è una cosa importante, dobbiamo informare la gente. Scusatemi, guarda, io sono d'accordo con te, dobbiamo informare la gente, però purtroppo non abbiamo materiale su questa notizia, niente foto, niente video, e poi la gente non viene sul sito, non clicca, non possiamo vendere la pubblicità. E di quale notizia invece abbiamo del materiale audio video? Ah, guardi, la notizia del cane che è stato morso dal vicino del padrone. Il video della chiappa ha già fatto milioni di visualizzazioni e noi siamo pure in vantaggio, perché abbiamo l'intervista alla vittima. Al proprietario del cane? No, alla vittima, al cane. Il cane è la vittima, Adesso poverino è ricoverato all'ospedale in stato di first reaction shock because... E del frontale a catena abbiamo qualcosa? No, di quello no, però in realtà possiamo mettere delle foto di repertorio. Non ho capito, abbiamo delle foto di repertorio di frontali a catena durante raduni di auto storiche? Certo, li fanno in continuazione, soprattutto durante i raduni quelli internazionali con le auto storiche britanniche. Sì, va bene, però gli animali bucano di più, sono tutti quanti più coinvolti. Avete visto Facebook, condividono tutti quanti foto di animali e animaletti, cioè fanno molto più audience. Sì, vabbè, però io comunque continuo a pensare che sia più importante e di interesse pubblico la notizia dello sversamento. Guarda, io sono d'accordo con te, la tua idea è ottima, però non vende, lo vuoi capire? Cioè, ci sono tutte belle giornate, adesso la gente non è che vuole stare là a pensare ai sversamenti chimici, se ne vuole andare a mare a rilassarsi, c'è stato un anno di pandemia, gli animali, vinciamo sicuro, fanno un sacco di click, likes e condivisioni. Certo è che se fossero stati dei gattini era molto meglio, perché le mamme poi... ma ci dobbiamo accontentare. Oh, allora abbiamo il titolo. Uomo morde cane. Vabbè. Perfetto, allora lo mandiamo in stampa così. Ciao ragazzi, ciao, buon lavoro. Ciao, arrivederci, ciao. Ciao. Beh, uomo morde cane mi sembra adeguato. Uomo morde cane. Uovo morde cane. Uovo, esatto. Bello. Si gioca, allora, uomo, uomo. Applausi per Ivan Calabro. Tratto da una storia vera, tra l'altro. Il suo fake news che comunque sta sul pezzissimo. Quindi abbiamo assistito a una riunione della redazione del fake news, incredibile. Pazzesco. Quindi, uomo morde cane, domani... proprio da dentro, stavamo lì. Da dentro, sì. Mamma mia. Comunque, mamma mia. Hai visto parte... come, hai visto come gira, Dizia? Gira, gira. Gira che è una bellezza. A parte gli scherzi, quello che volevo... Ah, gli scherzi. Buttare così in mezzo come riflessione è quella che provavamo a fare di là mentre che chiacchieravamo prima, ossia che l'informazione che ci viene data è anche un po' direttamente proporzionata a che tipo di persone l'ascoltano, no? Eh sì, che... abbiamo detto diverse volte che nel corso di questa pandemia un po' ci siamo sentiti trattati e trattato come degli sciocchi, delle sciocche, insomma, come stupidini, sì, come degli stupidi, no? Ai quali, insomma, basta dare la diretta a Facebook per tenerli a casa un mese e mezzo in quarantena, poi con la stessa semplicità, insomma, giocare con le vite di tutti e di tutte, perché è di questo che poi si tratta quando si vanno a fare dei piani di apertura e di chiusura programmati come quelli che hanno fatto questi tipacci, no? Decisamente sì. E quindi ecco, quello che voglio dire è che l'informazione un pochino, secondo me, ricalca questo stile di approccio al governo del popolo. Non so voi come la vedete. Allora, se si dice che diciamo ogni popolo c'ha i politici che merita, anche possiamo fare lo stesso paragone anche con l'informazione. Un pochino. Possiamo, sì. Perché effettivamente siamo andati un pochettino a guardare prima, ecco, non solo prima, ci siamo fatti un po' sta settimana, ci siamo fatti un bel giro di ricerca. Stiamo guardando che appunto la penetrazione, ad esempio, del tema economico e quindi dell'economia in sé all'interno delle notizie va analizzata, va studiata, va guardata bene, appunto perché ci rivela molto di quello che è diciamo come dire, di come reagisce il pubblico e di quali sono le notizie che vengono date al pubblico e a cosa sono correlate. Eh sì, perché insomma sappiamo, è una cosa di dominio comune, secondo me, che per informarsi bene bisogna andare a cercarsi più fonti e bene o male cercare di tirare le somme, insomma, a meno che proprio non sei uno che guarda, sai, un TG fisso tutto quanto per tutta quanta la vita, insomma, bene o male è una cosa diffusa che in qualche modo l'informazione non è la cosa più limpida che ci abbiamo qui in Italia, no? È sì, chiaro, sì, insomma. Sì, sì. Vabbè, e comunque, e quindi ci andiamo a fare un piccolo stacco musicale, ci sentiamo tra 4 minuti, sempre su gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre a Io Te L'Avevo Detto. Dai. Scuola le suore, squadra del cuore, giuro la do, senza lavoro, senza rancor. Ehi, l'Italia sì, ehi, l'Italia sì, questa è l'Italia, pistole e dialetto, parlano stretto, frate non è che non sento, che proprio non capisco cazzo mi hai detto. Caffè ristretto, corretto, l'estate il fottuto cornetto, ragazzi cresciuto ai campetti. Può scendere in piazza per fare ammazzati, baciare gli anelli di mani mozzate, disoccupati con ferie pagate, la mafia non fa la vacanza e ti uccide d'estate. Ci fanno una serie TV, è tutto già visto come un déjà vu. La tecnologia che ci porta lontano, facciamo fatica a parlare italiano. Ora problemi sociali, fortuna quest'anno vinciamo i mondiali. Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show. È come volare in economy, senza le buste del vomito. Corpi vestiti di graffi e facce che cercano schiaffi, ma trovano sempre gli applausi. Applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi. sei l'Italia una mente contorta. Chiudi la bocca o ti levo la scorta. Informazione sai, qui non informa razzisti che ascoltano il pop, qualcosa non torna. L'Italia è il suo fascino snob. Milano è l'asciugo e lo smog. Un'opera vecchia che dura da un tot. Non trova un finale come Turandot. Poteri forti, aprono i conti ma chiudono i porti. Rubano i soldi impossibili opporsi. La gente sorride coi tagli sui polsi. E pronto soccorso, siamo già morti. E lottando in un mare di odio affogati dai nostri rimorsi. Dio non l'ho visto ma ci conosciamo. Odio la chiesa ma sono cristiano. Prima di essere un vero italiano cerca di essere umano. Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show. È come volare in economy senza le buste del vomito. Corpi vestiti di graffi e facce che cercano schiaffi, ma trovano sempre gli applausi. Applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi. 90 minuti di applausi. L'estate in Italia, influenza latina. Cercano la hit estiva. Rum e cocaina, codeina. Sembra che c'hanno la tosse canina. Straccio la cinghia. Ciupami, ciupami, pinga. A sti rapper di minchia non gliela do vinta. Ritornerò in cima per dargli una spinta. Avvisiamo i signori passeggeri che questo aereo si sta per schiantare al suolo. Allacciate la cintura. Le buone al mic. Prego sedetevi comodi. Sta cominciando lo show. È come volare in economy senza le buste del vomito. Corpi vestiti di graffi e facce che cercano schiaffi, ma trovano sempre gli applausi. Applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi. 90 minuti di applausi. Io te l'avevo detto. Boh, comunque, secondo me spacca Salmo. E sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, 90 minuti di applausi per il livello dell'informazione che ci ritroviamo. Ah, proprio così, la tocchi piano piano. Sì, torniamo a bomba sull'argomento della puntata di questa domenica. Sì, ma guarda, mi sono pure alzato, mo do una tacchettina in più. Ok, Giacomo, allora ci darà dalla sua altezza. Abbiamo analizzato, ci siamo posti più che altro come domanda nel primo spezzone di questa puntata, qual è il perché di una notizia che buca, tra virgolette. E non l'abbiamo trovato. Non l'abbiamo trovato. No. Abbiamo provato a mettere a paragone appunto 130 morti del mare dell'anno, della settimana scorsa con il clamore che ha fatto una singola morte in America a confronto di tutte quante quelle che ci sono tutti quanti i giorni. Insomma, sappiamo tutti e tutte il problema quanto è diffuso. Nella seconda parte di questa domenica analizzeremo un altro tipo di notizia che insomma, a parer nostro ci ha fatto abbastanza rabbrividire, ossia la notizia che ha invaso negli stessi giorni dei 130 morti dei nostri mari del recupero dei brigadisti in esilio a Parigi. Quindi Giacomo, visto che volevi dare di più in questo spezzone, parola. No, ma io stavo scherzando. Al Giacomazzo, se volevi approfondire qualcosa, perché altrimenti io vi dico direttamente come la penso io. Io la vedo come un'espressione. Ah, ok, grazie. No, nel senso parola. Però già, cioè, nel senso stiamo a far radio. Giacomazzo, ci vuoi. Stiamo facendo radio. Pensi, però prima aspetta, perché no. Io come la penso io un attimo. Vabbè, mi faccio un applauso perché sono stato bravissimo. Mi sono fatto botta risposta da solo, però nel senso se stiamo a far radio cerca di intervenire. Dai. Stavo scherzando. Vai. No, vabbè, ma non ce lo siamo detti e continua ad essere uno degli argomenti, insomma, predominanti nei discorsi che facciamo. Questa vicenda purtroppo per noi ci suona molto del politico. Purtroppo questa non ha nulla, non è una vicenda che ha granché di giudiziario. C'è poco di diciamo giusto dal punto di vista della legge in quello, diciamo, che è un po' una notizia che ha bucato la settimana esattamente scorsa. Questa è una notizia che ha bucato perché appunto, o meglio per l'idea che ci siamo fatti un po' noi, che mi sono fatto un po' io, perché questa notizia affonda le radici in un periodo molto scuro con cui la nostra nazione purtroppo non ha ancora fatto i conti nessuna maniera, e che quindi è una corda molto sensibile, e di conseguenza quando noi andiamo a sfiorare questa corda solleviamo dei sentimenti molto controversi. Prima di tutto in Italia la prima cosa in cui si cade è pensiamo ai familiari delle vittime. Perché appunto questo è l'aspetto che più colpisce dal punto di vista umano, sentimentale, questo fatto di ma tu pensa alle povere vittime. Ecco, questo a mio modo certo, di vedere... Certo, c'è lo scalino in più che tu guarda questa povera vittima. Esatto, no? Tu guarda questa vittima che c'è, il figlio dopo 40 anni, la figlia, la moglie, il marito, insomma, ecco. Quindi... secondo me è un modo di leggere la situazione davvero, davvero poco utile per capire davvero quello che è successo in quel periodo e per farci un po' i conti. Allora, se ci fermiamo a riflettere al dolore delle vittime di una guerra, non riusciremo mai ad analizzare le ragioni e davvero la natura di questo conflitto che c'è stato e che purtroppo si è rivelato effettivamente poco, come dire, edificante. Allora, c'è da dire che ogni nuovo governo che è entrato ha provato a richiedere diverse estradizioni. Abbiamo assistito anche l'altro anno, non mi ricordo se un anno o due anni fa, insomma, a quella di Battisti. No, era un anno fa perché stavamo già in radio. E che è successo? Che è successo? Niente, quello che voglio dire è che cosa è cambiato, insomma, perché comunque... Che cosa è successo? Esatto. Questi rivoluzionari non è che fino all'altro ieri non sapevamo e non sapevano, soprattutto non stavano né tantomeno quello che facevano, no. Stavano là, ma erano, tra virgolette, protetti da un'etica che era quella del governo francese, che in diverse situazioni, per diverso tempo, insomma, ha cercato di dare appunto un appoggio politico, perché riconoscevano sì, purtroppo ormai al passato, mi stavo correggendo, però invece ormai è giusto dirlo al passato, perché riconoscevano appunto l'impegno politico di questi individui per cambiare le sorti di un paese che non aveva minimamente un rispetto della dignità dei lavoratori, delle persone, no? Quindi, insomma, sì, la famosa dottrina Mitterrand, insomma, che... E sentirli e vederli paragonati a i terroristi che mettono le bombe e che uccidono centinaia di persone, insomma, è una cosa un po' agghiacciante, insomma. Questa cosa qui rientra un pochino all'interno del panorama delle notizie e di come vengono anche strumentalizzate a seconda del usate, sì. Ma tanto è vero che chi si aspettava la sfilata all'aeroporto di Roma dei terroristi in manette ci è rimasto fregato, perché effettivamente non è questo quello che è successo, ma è quello che era il target che ci si precedentemente aspettava. Usato no, era quello che ci si aspettava dall'informazione che si è data, no? Fatto con Cesare Battisti, come avevamo visto, insomma. Vabbè. Esatto, questi show. Esatto, lo show, quindi un po' ci si aspettava quello. Ma il problema è che questa appare come una sorta di vendetta, capito? Tardiva vendetta, e questo è il problema. E infatti, quello che appunto. Okay, stiamo parlando su un crimine commesso 40-50 anni fa in un contesto storico, politico. Se posso. Se posso dire la mia, oltre a. Ma dai, di la tua, Spot. No, c'hai ragione, la seconda parte. Matteo, che ne pensi? Non dico più niente fino alla fine. No, si è accalorato il ragazzo, e questo lo dobbiamo capire. No, è giusto, ma va capito. Dici. Vai, Spot, tanto avevo concluso. Vabbè, ormai adesso mi sono tirato. Si è scordato, quello è il punto, capito? No, quello che voglio dire invece è che come tutte quante le altre notizie, come abbiamo detto anche poco fa, dipende sempre da che punto di vista le guardi le notizie, perché certo. Soprattutto questa, se la guardi da un punto di vista di un militante, non suona proprio come la cosa migliore del mondo, la cosa più soft del mondo, anzi un cambio così radicale di un altro governo che sta al quale siamo, con il quale confiniamo, insomma, non è una cosa da poco. A me perlomeno mi fa capire, visto insomma tutti quanti i fatti delle settimane scorse, basta pensare alle attiviste, l'attivista Notav ferita dal lacrimogeno, ma come tante altre compagne e compagni sotto sorveglianza speciale, insomma, quello che io leggo su questa cosa qui è un po' diciamo un campanello di dire non è proprio tranquilla fare un non è proprio tranquilla fare sì, fare rivoluzionari, diciamo, ce lo possiamo dire, no? Sì. Diciamo che quella che ci è apparsa come una vendetta tardiva si può tradurre come, insomma, il sistema sa colpire anche a distanza di anni, insomma, quindi pare più, quindi stai a occhio mo, capito, che insomma che infatti probabilmente tra l'altro creando un clima, no, di distruzione di ogni possibile immaginario di esatto, perché probabilmente fermarsi alla semplice manifestazione del o comunque alla risoluzione portata dalla legge, cioè il fatto che comunque queste persone condannate sono state finalmente, no, secondo la legge, portate in Italia. Non è solo quello. Si sta pagando, no, pensare come, cioè, l'opinione pubblica sta cercando di creare questo elemento, no? Cioè, okay. Finalmente si è arrivati a una condanna. Questi non rientreranno prima di un paio d'anni, da quello che mi pare di aver capito, perché la procedura non è proprio la più semplice. E poi, insomma, vedremo pure. Infatti, appunto, stavo cercando di. Dove staremo tra un paio d'anni. Ma a parte quello, più che altro è il perché. Oggi è la giornata del parliamo sopra. Il perché, insomma, l'analisi più che altro sarebbe capire perché proprio ora, no? Esatto, bravissimo, esatto, è proprio qua che si doveva andare a sbattere. È proprio qua che si doveva andare a sbattere. Come mai adesso, a distanza di tanto tempo? Uno, perché la Francia ha ridiscusso i termini della dottrina Mitterrand a questo punto? Due, perché in questo momento in Italia, dopo più di 40 anni, sentivamo il bisogno così impellente di far rientrare queste persone? Posso io rispondere? Vai, Matteo. Perché insomma, può essere visto e deve essere lanciato un segnale forte a tutte quante le categorie in stato di agitazione. E ti piacerebbe fosse così facile? Ma è così, compagni. Tu dici? È così. Che è quello che ci stavamo dicendo anche prima. Un po' suona come quel campanellino che è un po'... No? Che non sai mai se in realtà è una minaccia, cioè che... Ma quindi la domanda è... Il sistema, è lo Stato che ti sta dicendo, guarda che comunque ricordati che io ci sono e meno. Ma a questo punto, allora a questo punto... fisicamente e metaforicamente. No, in tutti i sensi. Ma a questo punto la domanda viene spontanea. C'è da aver paura di... Cioè, c'è da dare messaggi... No, c'è da capire questo, secondo me. No, voglio me. Dire, c'è una frangia di popolazione così pericolosa, tanto pericolosa da dover addirittura dargli dei messaggi. Guardate che io... Ma già nell'immaginario lo hanno stroncato. Questa è la domanda che dovesse, mi faccio io. C'è o non c'è, comunque già nell'immaginario ti sta dicendo questo messaggio che comunque verrà stroncato. Ma guarda, io anche non credo che questa cosa abbia un fondamento, nel senso che ci dovrebbero ci essere... Ma dovesse essere con una base di questo tipo, significa... No? È chiaro. No, ma infatti io... Però ci dovrebbero essere delle, come dire, delle avvisaglie, nel senso che in un momento... Allora possiamo dire bene che abbiamo letto bene da questi microfoni dicendo che la conflittualità in questo periodo o comunque... rischia di esplodere e il conflitto sociale rischia di diventare qualcosa di molto concreto, e quindi forse è proprio vero che il potere forse è proprio vero che il potere teme grandemente l'organizzazione del conflitto sociale. Ma io... assolutamente, la Raggi settimana scorsa si è scomodata per commentare il blocco degli ambulanti del raccordo anulare. Assolutamente. Per bloccare Roma ci vuole veramente poco. E se forse... impegniamo per bloccare Roma ci vuole veramente poco. Vabbè, ma questo ragazzo è un sovversivo, io lo terrei a distanza perché è una cattiva compagnia. Guarda. Tanto siamo tutti sovversivi con orgoglio, quindi. Ma infatti, guarda, io amo molto i miei compagni e le mie compagne proprio perché siete così belli, spontanei, fermiamo tutto, piamo. Comunque, visto che siamo così lanciatissimi, andiamo a sentire un contributo che abbiamo rubato all'Ansa. Non si fanno ste cose però, No, si fanno, non in questo caso si fanno. Vabbè, ce l'andiamo a sentire se parte, vediamo un attimo. Però contestualizzalo un attimo. A mio avviso. Provaci un attimo, capito? Mi lancia la palla così. Guarda, a mio avviso quello, cioè, è potentissimo. Se... Esatto, questo è quello che abbiamo visto prima insieme, no? Sì, esatto. Okay. Penso che qualunque persona. Ok. Allora, vai, parlane, dici. No, niente di che, insomma, intervista alla Colotti sui terroristi in Francia. Ecco, proprio intitolata così, sui terroristi in Francia, che è uscita sull'Ansa. Vai, 4 minuti e mezzo, ragazzi. Sì, 4 minuti e mezzo, ce la spariamo perché pensiamo che valga la pena. Esatto. Allora, il titolo è questo: terroristi Francia, virgola, Colotti, tra virgolette, ex BR, virgolettato, messaggio ai giovani movimenti, due punti, non ci provate. Esatto. Cioè, allora, ce la sentiamo e poi dopo. Però aspetta, no? Un attimo, prima di partire, analizziamo. Se uno analizza questo è quello che ci stavamo dicendo intanto poco fa. La Colotti, Jack, intanto la Colotti, quel non ci provate, no? Esatto, ma intanto la Colotti non è ex BR, perché la Colotti non si è né dissociata e né tantomeno pentita e lo ribadisce anche, e quindi non è ex un cazzo di niente. Aspetta, che devo applaudire. Vai. Seconda cosa, il titolo dice: non ci provate. Se uno lo legge così, appello ai giovani, appello ai non ci provate. Se uno lo legge così en passant, sembra quasi è un titolo fuorviante. Esatto, sembra quasi alla razzi, fatti cazzi. Io che sono un ex BR ti dico lascia stare, perché non è aria. Invece non è vero un cazzo, scusatemi di nuovo, mi ripeto nel francesismo. Vabbè, basta Giacomo, comunque basta ascoltare il scusate. Esatto, lasciamo spazio alle sue parole piuttosto che alla nostra analisi. Il mio turpiloquio. Ci andiamo a sentire il contributo. Penso che qualunque persona minimamente senziente si chieda a che pro andare a restare a 50 anni di distanza delle persone. È saltato un attimo, non questo che... vedi perché hai detto problemi perché... tecnici e, insomma, no, però me lo rimettiamo perché io mi fido della regia, sai, ma a prescindere quello ora è sempre fiducia.